Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio. Buongiorno e benvenuti alla 15ª puntata del Pinsimonio, che andrà ad affrontare il tema del disordine. Le parole di oggi sono parapiglia, scompigliare, sconquassare, scompaginare e perturbare. Parapiglia, cominciando, è un termine che è un composto di para e piglia, ovviamente, che sono gli imperativi di parare e pigliare, che indica una gran confusione o un trambusto improvviso di gente che grida, si agita, s'accalca, s'azzuffa o cerca scampo. Invece scompigliare deriva da pigliare, che con i prefissi s e con sta quasi a significare il prendere però in modo disordinato. Scompigliare significa mettere sotto sopra, buttare all'aria, mettere in uno stato di disordine e confusione. Il vento ha scompigliato le carte sulla scrivania. Significa anche disfare o scomporre, in senso figurato, turbare, confondere, sconvolgere o sovvertire. Mi hai scompigliato le idee. Sconquassare invece significa scuotere, urtare violentemente, in modo da provocare gravi danni, specialmente scompaginando e sconnettendo. Per estensione indica anche lo scombussolare, il causare indolenzimento, agitazione di stomaco e malessere generale. Il lungo viaggio in pullman mi ha sconquassato. E in senso figurato significa anche sconvolgere. Sentì che la follia stava per sconquassarle il cervello. Scompaginare invece ha due significati. Il primo, usato in tipografia, indica lo scomporre un'impaginatura e il secondo invece deriva da compagine. La compagine è la connessione di varie parti, l'unione intima di più elementi che costituiscono una struttura e anche l'insieme stesso delle parti strettamente connesse. Quindi scompaginare, nella sua seconda accezione, significa guastare l'ordine e l'equilibrio, rovinare o turbare la struttura di un insieme armonico e funzionale di parti diverse. Il vento ha scompaginato i fogli del giornale. In senso figurato significa anche disgregare, sconvolgere, turbare o disfare. Nell'uso riflessivo indica il disgregarsi, il turbarsi, il perdere la compattezza, la coesione morale e spirituale. Da qui andiamo all'ultima parola, perturbare, che significa turbare profondamente, sconvolgere, portare agitazione o alterazione in un ambito di natura sociale, fisica o psichica. Si dice anche di fatti, fenomeni o episodi che possono perturbare l'equilibrio psicofisico di una persona, come perturbare le menti. Si usa anche in senso letterale, come il mare si perturbò improvvisamente. Il participio presente è perturbante, che è un termine che chi ha letto Freud sicuramente ricorderà e che viene usato di solito come aggettivo per indicare qualcosa che turba profondamente, fatti o misteri perturbanti. E con questo parapiglia di parole si conclude questa puntata del Pinsimonio. Io vi auguro un buon proseguimento con il nostro direttore Alessandro su Radical Pop. La base di oggi è gentilmente offerta da Fulvio della Ragù Records, che si scrive con due O e che potete trovare su Facebook, Bandcamp e SoundCloud. Ascolta il Pinsimonio su Radio Città Fujiko dal lunedì al venerdì dopo la rassegna stampa di Radio Zanardi, oppure in podcast sulla pagina Facebook Il Pinsimonio Radiofonico. Il Pinsimonio è curato e condotto da Maurizio Casertano. Le definizioni delle parole proposte in questo programma sono tratte direttamente dal sito dell'Enciclopedia Trecani, per gentile concessione dell'editore. È vietata qualsiasi riproduzione e utilizzazione di carattere non strettamente personale e la ritrasmissione in rete o l'invio in qualunque forma. A domani! Il Pinsimonio, 5 parole per condire il tuo linguaggio.